pace, beh. Ascolta, questo non è amplificato, è manuale il microfono, normale. Cosa cazzo di metto la... Non mi vedi incazzare. Com'è adesso? Oh, com'è adesso? Mira, se la così la salita, va bene, è normale. No, dico, ha migliorato adesso da poco fa. Sì, è meno metallica. Perché ne avevo tolto il tappo. Claudio, guarda. Ogni giorno a casa ce n'è una, prima di paranoia, va c'è una stadio, mamma mia. Fa cazzo, le microfoni, chi ne esce le luci. Ma... ma Claudio è andato via. Boh, adesso sono con le levi più chicche a me, come mi senti con 3.900? Io discretamente, fammela sentire ancora. Aspetta che l'attacco, no. Guarda, 1, 2, 3, prova, cambio gas, passo. Così è abbastanza buona, è abbastanza alta. Ma gli avevi cambiato cosa? La capsula all'MB? E io, questo che è l'MB più 4 con la capsula verde. Verde, verde, verde. Natali, riprendi. Bene. È sparito anche lo spagnolo, mi pare. Oh, in lontanata come va? Perché adesso sono lontano un braccio. Come va così lontano? Va sempre, si sente l'effetto stanza, leggero, ma va bene. Cavaga, va, perché se no non posso stare con il cazzo, a me non mi va. Per quello a me mi piacciono i microfoni, quelli col cavo, casi da pappa, belli, li tiri, li fai. Mi servirebbe o un DM1000 da poter modificare, oppure... anche un, come si chiama, quello della Intec, quello lì, c'è lì, ne ha 3 o 4 mi pare. Domanda, si troverà il cavo microfonico tipo 4 poli non spiralato, cioè dritto, per fare spezzoni e adattatori? No, io ce l'ho, io ho quello spiralato. Ma sai, per fare spezzoni tipo 10 cm massimo, certo da noi non lo trovi a Sassari, devi ordinare da fuori, 4 poli almeno, no? Vabbè, dopo vedo su internet. Claudio, sei rientrato? Sì, sono qua, mi sto preparando per portare il cane, continuate. No, mettiti gli occhiali. Cosa? Mettiti gli occhiali, guarda lo Schmitter, guardalo, guardalo bene. Vedi un po'? No, attacca, attacca. Sì, sì, sì, avevo ragione. Qualche punticino, ma niente di che, sì. Quando parli sei sul 40, mentre invece prima eri fisso sul 40, capito? Qualche punticino, ma lo sapevo, una posizione diversa quella dell'antenna, eh. Non c'è problema, già va bene, Marco. Ha voglia. Poi ripeto, dal terrazzo di qua credo che si veda la tua zona. C'è Palazzi e Carbonazzi, credo che siano vista. Perché quando vi ho mandato la panoramica del tetto, mi pare di avermi capito qual è la zona, perché la direzione è quella. Si vedono delle piccole torrette all'orizzonte, no? Devono essere i palazzi tuoi. Quindi siamo a vista a portata ottica, dai. Sì, sì, sì, va bene, non c'è problema. Tutto un leggero, ma un leggero, leggero, leggero, capito? Sempre quello il segnale, per appena di meno, ma non fa niente. Tutto un pelino. Un pelino, quando parli vai sul 40, mentre prima eri fisso sul 40, beh. Non fa niente. 39 praticamente, sì, anziché 40. Anziché 30, sì, 28, 29, beh. Per farla proprio pignolo, pignolo, beh, va bene. Ehi, conta adesso che c'è lo spezzone in più, e quindi mi dà un po' di perdita, adesso tolgo. A me che cos'è, non mi piacciono queste cose, a me. E anche a me, io sono tutto diretto, non mi ho tenuto di avere strumenti, ho la T230 che mi comanda tutto, strumento professionale, non ho altri strumenti, sono altro armadio. Beh, proseguite, mi sto preparando, me ne esco un po' col cane, dai, a dopo. Ciao. tappa, ecco qua. Comunque ricordati che l'antenna diretta io non ce l'ho. Non la metto più l'antenna diretta perché l'antenna diretta mi ha rovinato. C'è quel cavo pesante, il 213, no, che pesava, se lo toccavi appena fletteva molto, mi ha rovinato la... come si chiama? Quello scatolotto col filtro anti-DVI di un apparato, l'ha proprio dissaldato dall'interno, e lo scatolotto piccolino era tutto saldato, elettrosaldato dentro, fuori, no? Un casino, quindi uso il cavo sottile che va al baracchino e quel filtro per eccesso di prudenza, non ero nemmeno tenuto perché il baracchino già esce suo, blando di suo, quindi bene, Gianni riprendi. Vabbè, so che vuoi riprendere la giura, dai, ciao, buonasera a tutti. Sto qua. Guarda com'è adesso. Adesso è più chiara, pari, va bene questa, lascia questa. Ok, da. Questa è l'originale. Ah, pari, l'originale è questa. Oh, no, non è l'originale. Sì, voglio il 7000, dai. Lo sai che con l'antenna manca essere, per le stazionare in fondo scala. Io ho fatto tutto l'attacco, ho fatto bene, il tuo gatto. Te l'ho detto che quelle prevalentemente sono per... non per qua. E io ho uscito il biglietto. Siamo là a comprare, non mi attivo. Quando c'è ci devono andare. Sì, in pratico, ragazzo. Magari là, guarda, un contello. Cosa? Magari un contello là, chiaro. Avvicinati più al microfono, se no sparisce la voce. Io ho detto che forse ce l'ha, chiaro, quella... come dire, quell'antenna che stai cercando. Chi? Chiaro. Ma se non l'ho tirata da un mese, non mi ha fatto arrivare. C'è la grande, ma la grande non la vede, sono un po' pesante. Perché tu la devi mettere la magnetica e quindi se non è leggera è un casone. Poi c'è la PC4 e la PC6 da Torino. Marco c'ha le 60 euro. E così se le fa pagare, quello è un ladro. Bisogna prenderla da internet e basta. Se la trovi su internet sarebbe una buona cosa, sì. Avrei preso la PLC Minos, che la conosco come va. Vedi, quella è leggera. E allora, la PLC Minos ci vorrebbe, con una base magnetica piccola, ma che chissà che giubilato è troppo bizzarro. Oh, sempre meglio grande che piccola la base magnetica, che se devi camminare magari si staccano quelle piccole. La catechista da un macco, da retta a un macco, la base. Io non voglio un'antenna, non mi pongo a fare gare di corsa, perché non ho messo quella piccola che c'ho io, quella lì va bene. Gaffa. Ma e tu ce l'avevi quell'antenna lì? E che fine l'hai fatto fare? Quale? La Minox. Quella lì l'avevo costruita io, l'ho fatta io l'antenna, la Minox. Con lo stilo che ci avevo. Un cassonetto della girampata che è andata in corto e non funzionava più bene. La controllavi, vedevi cosa c'era che non andava. La pure tu alla fatica. Sì, mi hanno preso la sub 2001. Mi hanno preso. A posto di quella lì. Già lo so, ma la sub 2001 è un bel pigiato. Quella no, va bene, quella lì, cazzo, arrivavo la posizione di Santiago 9, va bene, attaccato, Santiago 9, fai che sia 7. La Minox è più indicata, là, almeno è meno visibile pure. Quella difettava solo quando eravamo dei palazzi, perché sennò su strada larga pompava forte. Però... la Turbo 2001 anche per dei palazzi pompava e quella era bella, Iui, cazzo è caduto, io che non si può vivere, bisogna che mi avvii perché qua non si può vivere, no? chi è andata a vedere se sì? No, a chi ci pone in mezzo a ripetere. A chi? A chi ci pone in mezzo? Ah, ma non è che si andano a male, Natale. Bene. Ma quando ti arriva questo apparecchio, lo sai? Adesso già. È sempre a Bologna. Ho controllato poco fa. Da quando è a Bologna? Da oggi. No, dal 23, scusa, dal 23. Vabbè, comunque. In ogni caso dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare. Adesso da Bologna lo devono spedire il 23, 24, perché fermo così due giorni? 23 cos'è? Allora, aspetta, ma è stato spedito, qua c'è scritto richiesta e ritiro ok, 2, presa in carico, 3, in transito. È stato spedito il 22, il 23 è arrivato a Bologna, oggi è 25, sicuramente domani me lo consegnano. Aspetta, domani macchina apro... Ho mandato anche le mie email, ma sono indirizzo email per farmi sapere quando è in consegna. Sì, ma ci metterò tre giorni, Luca. Adesso arrivo a Porto Torres, da Porto Torres te lo portano, la SDA te lo devo portare, o Bartolini. La SDA non è a Porto Torres, Bartolini era per la macchinetta, mi ha già rimborsato il tipo, 46 euro e rotti. Invece quello lì è SDA, poi da niente, ma c'è anche il numero del corriere che fa il monte, dai, appena so qualcosa, domani mattina lo chiamo, al limite lo, come si dice, lo raggiungo io in moto, mi dà l'appuntamento in un punto, ma lo prendo io. Cappa, perché la moto usando la sta? Ogni tanto sì, se mi fa bisogno sì. Ah, l'assicurazione deve fare? Sì, di gomma. No, perché mi hai detto che ce l'avevi buttata sotto nello sgabuzzino. Sì, ma infatti è lì. Troppo, dai. E comunque, sai che arriverà a giorni, dai. Ci mette tre giorni solitamente. Non c'è problema, non ne ho fretta già, è tanto. Una volta che si piazza quello, rimane quello lì. Vabbè, dovrò fare la modifica per i canali. Fare cambiare quello lì, vabbè, lo farò con Marco. Se è facile lo faccio io. Poi svuoto i tappi di questo, mi faccio fare la... me li faccio riverniciare. Devo andare a Claudio. Avanti, chi è? Dove sei? Non ho capito. È molto sciatto, Lo capisci tu, Natale? La Marinella ha detto, chi è? Chi sei? Sei un po' di QSB c'hai, il segnale va e viene, non ho capito chi sei. Ehi, Gianni Fischie, cazzo, una vita, tanti inditti, come stai? Ma chi poi? Ehi, allora già, un po' passivo arrivi, non so come ti stai ascoltando a noi, no, Gianni Fischietto, già. E dov'è? A Porto Torres. Ah, io non sapevo dove era, pensavo fosse lontano. È la macchina è un po' strana, dai, forse è sacco. Cappa, adesso già ti sento perché non c'è propagazione, ma come c'è propagazione ti confondeva le parole, capito? Dove sei diretto? Ah, cappa, cappa. Avanti, Tattarino. Luca. Io sono qua. Tattarino! Tanto per me. E ci siamo andati già. Fischie, ci siamo andati. Boh. Sono tornato, stavo andando bene, metto poi prenderò un problema, va, me fai, ne va. Insomma c'è qualche condensatore in perdita. Ma, ne dubito. Lo smite, impazzisce. Che è avanti. Ehi. Mi senti? Che vabbè. Beh, va proprio in moto, volevo il capo. Ehi, ciao Lucarie, lo so chi c'è, ho appena acceso. Positivo Caparrose, frate. Positivo dottorogeno, dai. Ciao Luca, chi c'è ancora qua? Ci sono io e Gianni Lupio Roma, c'è Gianni Fischietto. Attenzione Gianni Fischietto, se tu ascolti Gianni, non so se mi ascolti, dai. Cazzo, c'ho gente nel canale 9, cazzo, con tutti i canali che ci sono nel canale a fianco, cazzo. Buh. Ciao Massimiliano. Ciao già. Attenzione Massimiliano e Bulldozer, se tu ascolti Luca qua. Allora aspetta, devo fare una cosa, lì che mi sono mazzoni, aspetta. E la sensazione di balla, lo so, io li sento. Gianni Luca, un rumore, senti Luca qua. Già lo sento, quello scalpestrato di Luca. Positivo Caparrosio, cadè, non ci sono problemi, dai, la voce è bella, ti ascolto bene, cadè. Ehi, c'è andato bene, ti bene, ma giù va tu, finalmente sono libero. E dillo a me, come te sei Massimiliano, chi si libera chi va in capo? Sì, ma la prossima volta vado dove andavo prima, dai. Mi trovo meglio, molto molto meglio, me ne fa, come dico io, dai. Per 3 euro in più, però me ne vado super contento. Cavallo. Perché questo non te l'ha fatti bene? Questo qua è un altro modo di lavorare, dai, no, è come quello, come il cugino di Marina. Cugino di Marina, un altro modo diverso ancora. Si mette davanti, ti controlla bene, non mi lascia un pelo in più davanti, mi li fa proprio bene, bene, proprio bravo. E vai da Luca, no? Luca cazzo. E anche se sono già edo, però boh, non mi trovo bene. Lì è bravo, però non. Per come me li fa, boh, non mi trovo bene lui. Ma Massimiliano. Ehi, grande amico mio, abbiamo fatto militare assieme. Senta Luca, si conosce una vita, Luca Babbucco. Ehi, lo va a bombrare il gassone. Ehi, vado da lui, sono sempre da lui all'inizio. Anzi, prima andavo da San Calvino, Massimiliano. Poi San Calvino ultimamente stava sgarrando, fammeli bene, mi era appena culo di scimmia. Non si un laddo proprio. Mi pare appunto Sarrato, quello che c'è in via la Marmora. Boh, non lo so, non te lo so dire, Luca. Va avanti Giannetto. Lo so, io no, vado sempre dallo stesso, vado via Baldella, io prendo l'appuntamento a quell'ora, me li fa tranquillo 13 euro con lo sciampo 15. E anch'io prendo l'appuntamento, cioè, sempre dallo stesso vado. A me normali 10 euro, taglio normale, alla meta 15 euro. A me 9 euro, boh, forse 7 o 8 anni fa, sempre la stessa macchinetta, tolgo tutti i rialzi e via, fino a che poco fa me li ho fatti. Ehi, vabbè, Massimiliano, quando dai pochi usi sei costretto a farlo, eh. Ancora Gaffiero mi è rimasta a me in capo, là. Ehi, aggrappa da un giro. Positivo, dai, non ci stanno problemi, Massimiliano, non ci stanno problemi, poi quando arriva la nuova radio proviamo il tutto, cara. Positivo. Sì, ma la radio se è trasferita venerdì. Cioè, venerdì trasferita? Il 22. E cos'è la 22? Venerdì? Venerdì, sì. E allora, sabato e domenica non contarli. È partita, non contarli perché quella è partita il giorno 22 e è arrivata a Bologna. Quindi domani stanotte in barca, domani ce l'hai, cavola. Positivo, Caparrogli, da noi ci sono problemi, la cosa è bella, che peccata. Dai, io, un sabato ci organizziamo, un sabato mattina, ci troviamo, quelli che ci riusciamo a trovarci, una persona birretta, un caffè, quella da qualche parte, organizziamoci. Non ci sono problemi, frate, ad Allello andiamo. E Sarrano. Davvero? Chiama. Come mai? Non l'ho aperto, mi sa che non apri più. Ma se aveva preso un altro paio di cose, boh. Si è preso il tabacchino lì a mancare. Dai. E poi il bar del mercato. E poi un altro anche al mercato. E cosa si è preso? Si ha ragione. E quello vicino a casa tua non ce l'ha più. C'era Claudio, praticamente il ragazzo della nipote. Non so cosa stavo facendo, se lo stavo pulendo, boh, non lo so, ti direi una balla, cara. Ehi, positivo, vai. Avanti, Gianni, dopo un rombo, dai, se tu ascolti i grandi modulatori, cara. vabbè. Adesso c'è un medicetto che sta mollando, che addirittura non l'ha più, non ce l'ha fatto più. Ce n'era una che stava cominciando, cazzo, cominciando proprio all'inizio, ma se ci voleva solo questo, mi stavo riprendendo piano piano, stavo aprendo la clientela, tutto un altro, lui con la virus si è tagliato le gambe. Adesso non sta più prendendo nessuno, non c'hanno paura di venire o che cosa, dice, non sta più prendendo nessuno. Ha fatto un po' di danno. Purtroppo non era una cosa che si poteva lasciare aperto, ecco. Diciamo che per un periodo loro hanno fatto bene a chiudere, hanno fatto bene, ma da una parte si mettono i fuochi, perché da una parte apri e visto cosa c'è a Milano l'altro giorno, la movida libera a Milano, non ve la rompo di bassa, tutto pieno, uno attaccato all'altro. Siete ignorante. Hanno messo musica, cose fuori dal bar, capito? Come nulla fosse, c'è tutta la gente accalcata bevendo, cose, tutto cazzo pieno di niente. Pare non sia successo nulla. È ignoranza delle persone. Oh già, si assomiglia a Luca parlando con questo baracchino, agli anni sigaretta con lo spagnolo. Cigaretta, devi dire cigaretta. Ma di che ti fa la culetta? Sono in cigaretta, vedo qua. Sono a casa, ti credi di tutti i gatti, ti ha tutto. Ma ce n'è propagazione, boh, io poco fa ero una 45 con Daniele. Daniele chi? Di chi? Io non so manco passare. Ma io veramente ho acceso la radio e ero direttamente lì, non ho neanche... credevo che c'era nessuno qua, perché ho fatto uno scatto qua e non ho sentito nessuno, quindi sono ritornato alla Rai. Con chi Daniele eri? Cosa? Con chi Daniele? C'è Daniele? Ho detto con chi Daniele eri? Daniele la radio Spillo. Ah, questa è sicura di non ritorno Daniele, vabbè da poco l'ho sentito, da. Da poco. Ogni tanto anche lui si fa vivo, là. Ha smontato, dice, era tutta la notte, ha smontato e stava facendo un paio di passaggi. Tutto lo giro, dai. La dignità calacolita. Andà bene, là, signore, io mi stacco un secondino, vado a beverarmi e poi se ci siete ritorno, se no non lo so, ciao. E quanti litri te ne devi bere di qui? Di birra? Per velarmi l'idea, ma cosa di birra? Io sono con la lice, sta toccando una tazza di birra. Sì, là, non da tanto, la birra? Ma se va bene. Guarda che non tocco un bicchiere di birra, sarò almeno, boh, forse un paio di mesi. Va bene, no, io me ne bevo con una bottiglia l'altro giorno, una bottiglia con la pizza. Se bugia, guarda, due settimane fa sono andato a casa di Costanzo che dovevo serrargli qualche microfonino così e ci siamo bevuti una lattina di birra in due, quella da mezzo litro, quindi fate un conto, boh, quanto ce ne sarà, un bicchiere e mezzo, ma ero una vita che non toccavo birra. Caraga, anda a ma ci vediamo, vai, stavo scherzando, non c'è problema. Ne puoi bere quanta ne vuoi. E tu Luca non ne bevi birra? Sì, una pranzo e una cena, due, una ieri anche a produttore, sono la 25 là. Chi è che vuole entrare? C'è qualcuno che ha fatto un break? Avanti? Cazzo arrivare Massimiliano Portudorra, 2,33 non filtrata, 7 euro. C'è la Germania nel 45, c'è propagazione Germania. E dove sei andato Luca? A Tropica? Boh, nella via principale lì, adesso. Dai ragazzi, sentiamo dopo, là, ciao. Il primo barchetto c'è salendo in piazza. No, all'ingresso, c'è la via principale, non so che bar sia, se primo, secondo, boh. Comunque c'è anche il posto fuori. Gappa. E adesso iniziano là. Devono ingranare adesso. Granati di là. Gabau. Lo devono recuperare, mi hanno messo un bel. Lo so. Devono recuperare, sì. Era un barbiere, già che adesso... Cazzo devi sapere rifarci. Tu devi dire rifarci, è una parola grande. Ma quando rifarci tutto quello che abbiamo preso, non c'è la gente che ci ha fatto i capelli con la macchinetta perché non c'erano i bambini. E quella gente lì era tutta gente che noi ci dava asciutto. Capito? Comunque adesso non scappa più niente, sono costretti a fare lo scontrino, tutti i barbieri hanno la macchina e la cassa, fanno lo scontrino. Il mio fa la ricevuta, ma non da adesso, da quel dì. Collegata con l'agenzia delle entrate, adesso non si scappa. Il mio fa le ricevute. Sì, ma i barbieri adesso hanno la cassa, capito? Ma lo so, il mio non è a cassa. Mi ha fatto la ricevuta, taglio capelli e mi ha detto taglio corto ti hai fatto almeno. Ti ho fatto i corti corti, ai lati e ha spatto l'accetto. Ha spazzolito di modo che si possa pettinare, là. E come li faccio io? Io proprio alla vetta li ho fatti. E così vanno bene, perché non ti fanno sudare d'estate. E ma cambio barbiere, là. Vado a Gianluca di nuovo. No, ma andare via a Mandela, poi mi dà la risposta. No, lascia perdere. Sanno già come li voglio i capelli, già. Non devo stare lì a spiegare anche a questo come li voglio. A me mi accontenta sempre, invece gli altri mi mangiare, mangiati a punta, a me a punta, non mi bianco. A lui gli ho detto, come ne volevo, solo spuntite e basta, la forma lasciarli la stessa, è sempre così me ne lasciati. Vabbè, io voglio a punta, capito, le baffette. No, la punta se le fanno le donne, a me non piacciono. Avanti il break. Avanti, c'è stato un break, avanti. Ma la, cioè, io basetto non ne ho già, la barba a punta mi intendo, verso l'alto. No, io c'ho i basettoni, io no. Li usavo 20 anni fa i basettoni. 59. Li usavo 20 anni fa i basettoni io. Vabbè, ma si usano anche adesso. Vabbè, chi piace, no? Non sto dicendo niente, ci mancherebbe, cavallo. Guarda Vittorio Giove come ce l'ha. Adesso quella lì è stabile a Vittorio. Sembra che abbia il microfonino per cantare. Ce l'ha appunta, ce l'ha lunghe e appuntite verso la bocca. E così li ha portate, così mi piacciono a me, grazie. Non mi piacciono con le punte, là. Ma è una femmina. Che backup. Devo portare il cane, ma sto temendo. L'altro giorno ho cattato odorato, dentro acqua, fuori sacchi, dentro la nasa, ha cominciato a starnutire. Se non smetteva più di starnutire, ho preso, l'ho controllato, non si faceva manco guardare, e sono riuscito a tirarne lui io. Adesso iniziano questi fuori sacchi. Sì, a questi fosci di sangue, ho visto un cane dal veterinario, una volta che riusciva il sangue, è un otturbaio, riusciva il sangue a più. Starnutiva riusciva il sangue. Lo so, i cani annusano dappertutto. Come l'ha portato dentro, gli ha detto venga che gli faccio subito l'anestesia, tanto ci vuole tempo per farlo. Perché stava asportando tutto un quarto di sangue, tutto in terra, tutto un casino a fare. Che regala! Poi è uscito un pazzo, evviva! Ne ha quattro! Cazzo, era incinta la cagna! Un bel contento ella! Poi anche Maria, la moglie è incinta, non la cagna! Di Nasso! Era un bel contento, un bel contento! Ah! È uscito Brinchendi! Ne ha quattro! E vabbè, è di Nasso! La gente preferisce andare a Caviglia a prenderseli, non li paga nulla, sono già sterilizzati, già col vaccino, già tutto quanto. Se tu prendi un cane, devi fare il vaccino, devi fare questo. Io perlomeno quando l'ho comprato, per pagarlo di meno, gli ho detto di non fare i vaccini, che li facevo io. E a 2 mesi, quando me l'ha dato, l'ho portato e gli ho fatto fare i vaccini, tutto quanto. E ci ha speso un po' di soldi, richiamo di quel vaccino, richiamo dell'altro, insomma, lui. Lo so già, dove fa, purtroppo. Cioè, mi stai ascoltando, sì? Cosa? Mi senti, sì. Già ti sento, però c'è un bel forte e a volte ti mani malato. Mi mangio le parole, ho capito. Aspetta. Guarda che a due adesso, ora un po'. E adesso che hai parlato piano, magari forse perché parli forte, perché se parli piano va bene, ma non c'è bisogno manco di abbassare. Aspetta, la telefono. No dai, sta andando che porto il cane, Luca, dai, ci sentiamo dopo magari. c'è ancora l'altro, là. Ti faccio un dito. Chi è, avanti? Ciao, dove va? Chi è? Giovanna, con la scuola. Giovanna, ciao, tutto bene? Tu, da poco. Giovanna, tutta pane. Ciao, bella, vai, come stai? Ciao, buonasera. Buonasera. Pitu, pitu. E allora, Giovanna, te mi conta già. E ti racconto, è caldo, c'è oggi, molto caldo. E tu esci, te ne vai a sventiare all'aria. Dopo me ne so con bimbi e nipotino. Guarda, ti fa un cinetto. No, il prossimo lunedì sì. Prendiamo la tutto il giorno, me ne sto anche a porto solo. Oh, non sento più luna, c'è propagazione, guarda, vi saluto, ci sentiamo dopo. Giovanna, perdonami ma non ti ascolto, c'è propagazione forte. Ok, ciao. Io lo sento, segnale 7 qua. Segnale 7, che è stato 1.10, cavolo, forse non è entrato nessuno. Oh vabbè, io ho stato ancora un po', poi guarda che l'ho messo da parte. Mi sta uscire con la signora. E bene. Allora ci faccio a casa? Niente, Giovanna. No, ma adesso che c'è caldo, che si può uscire, si può stare un po' più vicino. Ma infatti, ieri era a Porto Torres, una passeggiata, un gelato, una birretta, penso che fa. Sì, questo è quello comunque. Birretta è quello. Frate, in giro, Sì. Frate, in giro, si fa a casa. Maledetto. Già fa bene, non ha figli. Allora, però si fa per i figli. Bastano i nipotini che c'ha. Beh, alla fine, anche se sono nipotini, come potrebbero essere i figli, fanno bene lo stesso. Quanti figli al giorno d'oggi è un bel casotto. Se poi adesso sì, è un casotto. Poi lavoro. Lavoro e le visite da pagare, Non hanno venire, ragazzi, adesso. Che avvenire hanno? Duro. Meglio pensarci due volte prima di farli, poi non c'è lavoro, non c'è un capo, allora mia figlia ha dovuto andare a Bologna per trovare lavoro. Non so, fuori c'è, quel poco che c'è. Fuori c'è perché c'è, però qua non ce n'è, qua è bello solo a farsi le vacanze e poi a tornarsene sul posto di lavoro. No, non so. È un casotto, non se può vedere, sto via. Vabbè, vado a portare papà, ciao. Ciao, buona passeggiata. Io lo porto più tardi, da poco fa mi sono portato. Stanotte, prima delle 9.20, la portiamo alla signorina. Ciao Giovanni, ci sentiamo, ciao Natalina e ciao Luca. Ci sentiamo dopo, ora se ci sei. Io sono ancora qua. Fame non ne ho, però penso che mi venga dopo, chi lo sa. Vieni a Natalino. Ma questa antenna a pompugno, come l'ha messa Giovanni? Di orizzontale. Mezzo verticale a destra, orizzontale ondulata sopra la montagna fino a sinistra e poi sale in alto. Quella la vuole verticale, no? Ma non si poteva fare dal testo, fate interno. E con chi stai parlando lui? Con la ragazza. Con Giovanna, la sorella di Pompugno. È un pochino bassa esce. C'è l'antenna come la tua, solo che Pompugno gli ha piazzato l'antenna orizzontale, Dani. Com'è che gli era piazzata l'antenna? È un po' orizzontale, così è Giovanna. È un po' orizzontale interna. Un po' orizzontale. Sì, ma sicuramente anche un po' in terra come antenna. Questa Coca-Cola fresca è, o ghiacciata? Non è ancora fresca, ghiacciata no. Se sono ghiacciata esco già di testa. Ah, ecco, no. A me piace ghiacciata, quindi niente da fare. Allora non ti posso bere. No. Fa male ghiacciata fresca, va bene, ma ghiacciata fa male. Sì, ghiaccio e limone già va bene. Ciao Giovanni. Ragazzi, io ero al telefono, vi saluto tutti e vado a preparare dall'altra parte. Un abbraccio a tutti e buon proseguo di serata. Ciao Giovanni. Ciao. parlami. Ciao Clara, facci sentire. Vince, io non mi ascolta. No, Danilo ti ascolta a basso, io ti ascolto, non diciamo bene, comunque ti ascolto, dai. Ciao avanti Dani. Sì, come mi senti a me Giovanna? Brava, papà. Sì, come mi senti adesso? Bene, male, segnale, radio. No, aspetta. Chi? Danilo. Sì, la WTVT. Sento un uomo, sto arrivando qua. Località Carbonazzi alto, che più alto non si può. No, tu Clami, stai arrivando a 9.20 secchi. Un pochino più alto di me, sì, Chi? Tu. Io. E dove sei tu, perché? Sant'Orsola Nord, sotto. Sono un po' più alto, più basso, più alto di te, un pochino più alto di te. Cazzo, a 320 metri dal livello del mare. Sant'Orsola è a 180, mi sembra 170, così di te. E io cos'è che ti sto dicendo? Sei molto più alto di me. Ah, avevo capito, un pochino più alto di me. Ehi, non ce n'è zona più alta di questa, assolutamente. No, tu sei in una posizione bella, bella alta. Poi con i palazzoni sei ancora più alto. Le antenne sono a 45 metri, a livello di terra, fate il conto, siamo quasi a 370. Nulla mi stai dicendo. Tu pensa se mi piazzo un palo all'altezza tua, più o meno siamo, ci vediamo le antenne, no? Ma deve essere un bel alto. Sant'Orsola io lo vedo molto basso. Ma sopra il tetto io vedo tutto sasso e basso rispetto a dove sono io. E vabbè, io qua ho comprato nel 1987. L'ho comprato apposta. Vabbè, divertitela, mettete pari e tradici. E poi me lo dite. Ci sentiamo, ciao, vai Ugarie. Ehi, ciao Fra, ciao, che ciao. Ehi, andare, oggi è fatto caldo lo stesso, una bella passata di caldo. E vabbè, tempo suo, Finalmente. Ah, Giova. Finalmente, meglio della pioggia già è. Ah, beh, senza ombra di dubbio. Sempre pioggia, freddo, vento, basta, dai. Ci dobbiamo prendere un po' di colore anche. Sì, tanto non riusciremo anche a prendere il colore qua. Io prendo colore subito, infatti sto temendo, questa domenica no, perché ce n'è il compleanno, la 25, è venerdì, però lo facciamo in campagna, e questa domenica pensiamo a prendere in campagna al sole. Però la prossima settimana andiamo al mare. Ma io sto chiudendo, Lu. Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima volta, ciao. Sì, Dani, allora, come andiamo d'accordo? A Luca lo porti. Lo lascio a Luca, a casa di Luca. Va bene, andate. Così di nuovo piatto, così ci abbiamo un peso, dai. Va bene, Dani. Andate Luca, dai, già ci sentiamo. Ciao a tutti, sto chiudendo. Ciao Dani. Ciao Danilo. E tu hai ripreso il lavoro? Niente. No, ripreso, sto già lavorando da qualche discorso. E com'è? Com'è, non è sicuro. Con la mascherina, no? Sì, e poi il vicino si dà una bellezza con la mascherina. Mamma mia, affughi, mamma mia, cosa ci vuoi fare? È un bel casino, guarda. È un bel casino perché molti non entrano con la mascherina, è un bel casino, sì. Non si può. Già c'è caldo senza mascherina, figuriamoci con la mascherina, per carità. E sto temendo quando siamo ad agosto, 40 e passa gradi. E quello è, allora. Sai che c'è un cubo che vuole parlare, ma... Chi è avanti? Bene, messaggio. Che vuole entrare avanti? Io ero, ho detto, meglio niente. Parla, Giulio. Rispondi. Qualcosa. Non mi senti, Lu? Sì, si sta parlando Giovanna, ma senti a Giovanna. Oddio. Mi senti? Non ti sente, ha detto, ma dove è sordo? Che è, beh. Ti fai i muscoli con questo microfono da tavolo. Cosa, Lu? Ho detto che ti fai i muscoli con questo microfono da tavolo ogni volta che pigio la portante. Sì, no, lo vedo quello che fare, insomma. Adesso so. Esci che faccio fermata su Giacina. Stavo sperando i miei. C'è il medio, il grande, il più piccolo che vogliono uscire un pochettino, dai, che faccio fermata. Buona sera. Senti, sono la piace. Senti l'altro. Ehi, hai a fare il concomo, Giova, tranquilla. Ne siamo qua, allora. Cosa, Lu, che non sento niente? Ho detto fai con comodo, poi fai la passeggiatina. Sì, li faccio un pochino fare un giro sotto casa, uno con il fante e l'altro corre a correre, si seguono un pochettino. Sì, ya. Ciao, bella, buona serata. Anche a te, ciao, buona serata anche a te, ciao ciao. C'è qualcuno su 10? Che reggae! E beh, Lu, nessuno c'è? No, c'era cosa, Natalino, poco fa, non so che fine ha fatto. Ehi, questo è un altro microfono, come la scuola, vabbè, ne ho due, ne utilizzo due. Questo ti piace come radio, Lu? Sì, sì, bella anche questa. Questa è la Lune, ogni tanto lo faccio girare, magari vuole regolato meglio come equalizzazione, però a me piace come tipo di microfono, come uso mi piace più del 60, magari non lo so se sia meglio, sicuramente equalizzato fa meglio del 60, che questo è proprio al minimo, minimo, minimo. Vale 44? L'apparecchio è 44, però il microfono è la Dunisi 908. Bella, bella radio, sì. Ma diversa la senti da quella solita mia? Ma che somiglia a me. Questo c'ha, vuole regolata bene bene, con il, perché c'ha l'equalizzatore, basta lo tocchi un peluzzino, cambia totalmente la modulazione. C'ha quattro bande di equalizzazione, poi c'ha tre compressori, basso, medio e alto, più c'ha altre cose, è allucinante. Puoi attaccare tre apparati di tre marche diverse, Yaesu, Icom o Kenwood, c'ha tre uscite diverse. Buona sera, quella fanno robe cinesi. Praticamente dal tuo lo recuperano, no? Non ci, cioè no, ci hanno i macchinari adatti, io non ci riuscirei a farlo. Cosa fanno? Ne attaccano il vetro rotto, poi con la, come si chiama? Con la, le rime apposite per quel tipo di telefono, per quel tipo di display, incolano il vetro o solo il vetro. Ah, fate usi, diciamo, lavoro in economia. Tu invece cambi totalmente tutto il corso, display e cornice. Tutto cambia roba, tutto blocco, allora. Costa un bel però così, io pensavo costassero poco. Quando mi ha detto il prezzo non me ne sono sceso le braccia. Ha detto, a casa, il telefonino se lo faccio a pezzi quanto mi costa. Una cifra assurda, lei l'ha pagato, anche se l'ha pagato tanto. L'ha pagato 2,50 quel cellulare, infatti ha giudito che un furto con 250 euro mi prendo uno Xiaomi e li fa 10 a 0 a quel. Xiaomi sono buoni, eh. Xiaomi è il miglior telefonino qualità prezzo, io ho lo Xiaomi 9, come si chiama? MI 9, cioè. L'altra mia figlia ha l'MI 8, ci ha preso, ti posso garantire perché i telefonini già li conosco tutti quanti, qualità prezzo è il numero uno, il miglior telefonino qualità prezzo Xiaomi. Poi prima era la Wii che faceva degli ultimi telefonini a livello di prezzo, costavano quasi la metà, però adesso la Huawei ha fatto prezzi un po' troppo alti, io prima ce ne ho avuto due Huawei di telefonini, però adesso lo Xiaomi, ho fatto tutte le prove comparative, per quel prezzo non c'è niente di meglio nel mercato, devi spendere almeno, non dico il doppio, però una volta e mezzo. Beh certo, certo. Ascolti, ma per qua, per che ore? È un casino, è un casino. Sì? Io ho un S10, tu conta che chi l'ha comprato, io per la seconda mano l'ho pagato 700 euro. Io ho un S8 comprato fuori all'estero, l'ho preso 2 anni fa, l'avevo pagato 110 euro, e vabbè, l'ho pagato con moneta di lì, non c'era l'euro di lì, e l'equivalente 110, ce l'ho ancora in casa, non mi credo, l'ho mai usato, adesso è già superato l'S8. Beh, c'è l'S20 adesso. 2 anni fa era l'ultimo che era arrivato perché era uscito l'S9 subito, ma questo cacchio di contrabbando, questo c'aveva tutto, di tutte le marche, Samsung, iPhone, Huawei eccetera, ho preso quello lì perché mi è piaciuto, era bello bizzanti, però era per il mercato orientale diverso, ho detto ma funziona, sì sì, ma l'ha acceso, mi ha messo la scheda, me l'ha fatto vedere, non ti dava niente, mi scatole né niente, ti dava solo il cellulare e il caricatore di un'altra marca, li prendevano da spazzafuri, non so quella roba, ma per cacchio li prendevano, questi qua ne avevano in corso, pieni di tutti i modi, anche tablet ci avevano, li vedevi in mezzo alla strada. Ciao Roberto, sono rientrato. Ma non è originale però. Come questo non è originale. No, tutta roba originale, però sono di montazione parallela, di lì sono dei mercati poveri, e questo è successo in Albania, non l'ho preso qua. E di lì la roba costa molto di meno, anche la roba, ho preso anche roba di marca Adidas, Nike, cioè cose così, le paghi molto, ma molto meno di noi. Poi ci sono anche le imitazioni naturalmente. E ne è stato Riccardino, avanti Riccardino. Ah ok, grazie Roberto, sì, come ho detto sono rientrato, mi sono assentato senza dirlo perché stavano parlando e stavo chiamando i cavalli perché sono andati a cercare a bagliare e quindi mi sono allontanato senza avvisarvi. Comunque ciao ospiti, non so chi è entrato, ho sentito solo Roberto adesso e Luca. Ciao Riccardi, da questo è un attimo roba di bene tempo a riconosciuto. Ok, Riccardo, l'altro giorno quando sono venuto da te mi è piaciuta, sembrava una fotografia, quando stavamo andando via c'erano i cani, tutti e due, quanti erano? Due o tre di quei cani, quelli un po' più di taglia più grossa, adesso mi ricordo se erano due o tre, a fermi tutti e tre vicini, uno all'altro, al centro dove girate con i cavalli. Sì, sono tre. Sembrava una fotografia, ma belli, perché erano proprio attaccati. Lo so, si mettono così quando vedono qualcuno che sta arrivando o quando stiamo andando da loro. Ma morsicano, sono cani da guardia o sono tranquilli? Oh, leccano solo, non abbaierebbero a nessuno. Se viene uno sconosciuto a casa invece che aggredirlo lo leccano. Meno male. No, ma erano belli, mi sono piaciuti, perché erano belli, se erano cani di compagnia, veramente belli, mi sono piaciuti. Ok, vabbè, tuo padre stavanti è venuto per quel fatto della batteria, che cosa che decisione ha preso? Adesso vede, sta cercando una batteria AGM o un'AGL almeno, che sia da almeno 100 ampere ne prende due. E poi deve prendere quell'alternatore, come si chiama, di carica che si blocca la batteria da quella della macchina a quella della cellula. Ma siete andati a chiedere a Fusaro o che cosa? Ci è passato lui, non lo so perché ci siamo fermati lì nell'angolo e ha messo le quattro frecce e è passato lui, non so che cosa gli ha detto e quindi dopo glielo chiedo comunque. Che magari già gli do qualche informazione più dettagliata, dai, perché io ne ho cambiato diversi di quelli di quei distributori di carica, partitori di carica si chiama il nome esatto. Ne ho messo diversi, ne abbiamo fatto tanto, ne ho messo uno un mesetto fa su quello mio pure perché ho fatto un impianto, già hai visto come lo sto facendo Riccardi, l'ho messo sotto il vano l'abitacolo dove c'è il sedile di guida, lì gli ho costruito un alluccio per la batteria, gli ho messo il partitore, gliel'ho messo come si chiama, fuori, vicino all'altra batteria, è un bel lavoro, dai, non perché l'ho fatto io, però è uscito un lavoro di grande qualità, perché ho usato materiali di qualità. Sì, ho capito. Non ho capito il discorso, perché come ho detto sono arrivato perché adesso ho sistemato i cavalli. Non ho capito dell'Albania, che cosa c'è andato in Albania? Sì, sono andato tantissime volte, per amici, amicizie, eccetera. E no, per il fatto dei cellulari, che lì c'è un mercato più povero del nostro, molto molto povero, anche se è un paese in fase di sviluppo, diciamo, ci sono cose che neanche ci immaginiamo, che ci fanno 10 a 0 a noi. E lì c'erano questi sulle strade che vendevano cellulari, tablet, eccetera. Poi ci sono dei mega mercati giganteschi dove trovi di tutto di più, dalle scarpe, orologi, altoparlanti, di tutto, c'è un capannone, una cosa quanto un paese pieno di cose, una cosa spaventosa. Ho capito, perché per esempio che cosa sta che ci batti 10 a 0? Non ho capito. Cos'è che ci batti 10 a 0? Vabbè, sarà un paese così, però dico cos'è che ci batte? Lo Xiaomi è il miglior telefonino che c'è in circolazione adesso, Redmi e Xiaomi è la stessa cosa, perché uno è un marchio più economico, li fa 10 a 0 a qualunque cellulare di prezzo, qualità prezzo. Ho capito, tipo Xiaomi, Redmi, il modello Redmi. Sì, c'è Redmi, è il marchio diciamo economico della Xiaomi, come l'Honor è il marchio economico della Huawei, ma è la stessa cosa, per dire anziché utilizzare la carcassa.